solo e mezz'ita, solo pace e niente più. Ore di felicità, niente lacrime lassù. Ogni cuore sognerà con la giusta sua metà. Solo pace e niente più. Ore di felicità, niente lacrime lassù. Ogni cuore sognerà con la giusta sua metà.